Yeah, děkuji MC. Mad Studio, Panic Room Production, tenetevi forte. Piegato sopra il foglio, aspetto l'illuminazione. La mia fotta dall'interno vuole la scarcerazione. Pronto al grande salto dal ciglio di sto burrone. Altro che Geronimo, salto e grido decore. Cavallo pazzo al vaglio di tutti i loro inquirenti. Stanno col fiato sul collo, pronto ad affondare i denti. Macabri e contenti se crollo in difficoltà. Mi vogliono forzare a un cambio di identità. Mi vogliono tranquillo, obbediente, più sottomesso. Mi vorrebbero diverso, ma sono complesso. Non mi comprano col prestito, nemmeno con l'iPad. Mi vendono illusioni che ricambio con il rap. Mi hanno immaginato perché ho capito l'inganno. Tu aspettati il contrario di quello che fanno. Non contare mai sulle cazzate che raccontano, perché ti sembra che governano invece compiotano. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Sono subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Zero subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco. Pazzo d'eco, molesto ed impertinente. L'artista caliente che non fa finta di niente. In fondo la legge è uguale per tutti quanti plebei, e si chiudono occhio solo se si toccano gli dèi. Mi han detto socio non ti devi mica preoccupare, c'è un sistema fatto apposta per aiutare. Poi mi han detto guarda aiutati che il cielo t'aiuta, ma nessuno si fa vivo, missione fallita. Sono tutti santi, tutti benefattori, travestiti da agnelli si nascondono i predatori. Feroce al punto giusto, né troppo poco, sempre pronti ad incularti e condurre il loro gioco. T'han detto che puoi scegliere, ma è tutta una finzione. Nelle guerre vincerà sempre la supernazione. T'han detto che ci sono i buoni contro i pessimi. Falso, esistono i cattivi e i cattivissimi. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Sono subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Zero subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco. Hai capito che ritiro questo sistema vampiro, cristallizza e ti schiavizza tiro dopo tiro. Un gioco antico secoli, dove se non ti regoli finisci ad impazzire cercando gli svincoli. Lo so, ho problemi ad accettare che oggigiorno le conquiste te le puoi comprare. Io mi gusto tutti i secondi di resistenza, dico cane pazzo sul fuoco sono io la benza. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Sono subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco. Lo so, sono sempre il solito preso male, o forse il resto della gente che non è normale. Zero subliminale, tra le rime ti induco a reagire contro l'oppressione in questo buco.